Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. E non solo riprendiamo la diretta, ma riprendiamo anche la comunicazione, il dialogo, co-conduzione con ascoltatrici e ascoltatori del Breakfast Club, arrivata durante il termine della lettura delle prime pagine. Do il buongiorno a Maria, che ha condiviso l'intenzione e anche la concretezza del voto che ho dichiarato in precedenza. Mario Capanna è stato anche per me il mio primo voto. Che emozione, buona giornata. Sai che ero molto emozionato anch'io, poi vi racconterò di tutta la, quando ancora c'era una passione. Grazie Maria, buona giornata. E Fabio, buongiorno, buongiorno a te Fabio. Beh, Democrazia Proletaria fu anche il mio primo voto a 18 anni, in piena contraddizione con mio padre che votava per il Partito Comunista. Lo stesso per me, ma con mia madre, sai Fabio. Comunque, questi personaggi oggi mancano come il pane alla politica e non solo italiana. Ah, certo. Ma già iniziavano a parlare di voto utile, hai visto che bel percorso che ha portato il voto utile, eh? Concludiamo con Matteo, buongiorno a te Matteo. Sparita l'Ucraina dalle notizie, anche qui di pace non si parla. Buongiorno a te, grazie Matteo. No, che stanno prendendo, hanno preso una suonata che sai per quanto sparisce quella notizia lì? Motivo di dialogo assolutamente da non trascurare, anzi fondamentale, è il Breakfast Club nella parte della lettura delle prime pagine. E ora nuovamente assieme per un last minute che vede protagonisti altri suoni. È il Robot Festival, che è arrivato alla 14ª edizione. In conferenza stampa io solitamente arrivo con degli anticipi mostruosi perché mi piace e sono abituato così. 14ª edizione, ho avuto modo di intercettare Antonio Puglisi, che saluto. Antonio, sei sempre quello, e adesso mi hai preso in giro un po' perché dopo tanto tempo, qualche chilo in più, insomma, capisco, è passato del tempo, per cui insomma influisce anche sulla fisicità, però è stato un grande piacere ritrovare, come ritrovare il direttore artistico Marco Ligurgo, che sarà a breve ai nostri microfoni per dare anticipazione al Robot Festival. Un festival che nasce con una chiara identificazione, certo, sulla musica elettronica, ma con intenzione DJing, produzioni, tutto quello che è un avvicinamento alle sonorità elettroniche, anche con grande importanza per un'idea di club. Qui non solo in 14 anni, beh, siamo cresciuti ed è cresciuto anche il festival, non solo io di peso, ma il peso artistico in questo caso, con un ottimo lavoro, con delle sedi per quella che è la rassegna imminente, il Robot Festival, che vedono protagonisti per la ricerca musicale e non semplicemente altrettanto importante per l'espressione all'interno di club, musica techno e altre espressioni artistico-musicali che ci saranno, questo insomma poi con le parole di Marco avremo modo di conoscere meglio questa 14ª edizione. Sentiamo appunto allora cos'è cambiato, come si cresce, non solo di peso ma di peso artistico. A tra poco. Sono passati tanti anni e quindi ci vediamo cambiati, caro Marco, come è cambiato anche il robot. Esatto, il tempo passa, siamo arrivati alla 14ª edizione e sempre più ormai un festival diffuso nella città di Bologna. Quest'anno abbiamo per la prima volta il Teatro San Leonardo il giovedì, poi abbiamo il venerdì il ritorno a Palazzo Renzo, che è stato per tanti anni diciamo l'headquarter della parte diurna del festival. Il sabato andiamo all'oratorio San Filippo Neri, che è un ritorno dopo la bellissima esperienza dell'anno scorso, e poi il Dumbo, che è diventato diciamo la base degli eventi notturni del festival, anche quelli durante l'anno, e il TPO, che comunque è una di quelle venue dove ci siamo trovati sempre bene. Ecco, rispetto agli anni precedenti, rispetto anche al periodo

Durante la conversazione con Marco Licurgo, direttore artistico del Robot Festival, è stato citato Ryuki Sakamoto con Alvano Otto per un concerto in edizioni passate. Allora, ho riportato questo lavoro dalla straordinaria coppia di musicisti Evrium. Esoterica etichetta Raster Noton. Quindi abbiamo l'imminente edizione del Robot Festival e il ricordo, e non solo la crescita, come ho detto in precedenza, del festival e i pomeriggi passati al Disco d'Oro, nella ricerca, nelle chiacchiere. E saluto, a tale proposito, sarà ancora a letto, magari manderò il podcast al mio amico fraterno Luca. Ho detto no, questo è Amnesia Scanner, è un prodotto, anzi producer di musica e non solo, anche per quanto riguarda l'aspetto video, che con installazioni unite a queste sonorità, beh, ha citato un nome come Aphex Twin, ti può dare un'idea. Parleremo anche di Aphex Twin all'interno di questa rubrica. Intanto Amnesia Scanner, ho portato un brano perché è giusto che non solo io li conosca, ma anche voi, per concludere il nostro last minute di oggi. Questo brano, con qualche nota che ascolteremo per renderci un po' l'idea, ma rendiamoci conto che le installazioni omnicomprensive dal punto di vista sensoriale sono anche corredate da immagini all'interno del Robot Festival, per rendere suggestiva l'idea di questa rassegna. 14ª edizione Robot Festival, a tra poco con quello che è invece il voltiamo pagina, dalle 8:30 in collegamento con Silvia Albertazzi, la nostra rubrica letteraria. Beh, non avete ancora nominato, citato, intuito, indovinato il personaggio misterioso, quello famoso? Se voi suonerete le vostre trombe, se verrete all'attacco, sappiate che noi suoneremo le nostre campane per radunare in la resistenza in piazza e fare una forte opposizione al vostro attacco. Chi disse questa frase? È un fiorentino, è un, così, per dare un indizio in più. Per voi una colazione, per chi indovina questo quiz iniziale nel Breakfast Club. Vi sarà anche quello poi per il libro della settimana da me presentato. A breve, buon ascolto.